Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Carissimi amici, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto per la nuova edizione di Fuori di Noi 2011-2012-2013-2014. Beta, fermati. Fermati. Ah, devi fermarmi, è sì, vero. Decisamente. Sì. Ciao Beta, intanto. Bentornato Cristian, bentornati anche a tutti i nostri radioascoltatori che puntualmente si sono sintonizzati sulle frequenze di Blu Radio Veneto per questo viaggio avventuroso alla scoperta dei nostri magici oratori. E una scoperta, come noi facciamo qui a Fuori di Noi, non è scoperta se non c'è anche l'ausilio, la competenza e la professionalità del nostro regista Edi Daici, che salutiamo e ringraziamo per aver rinnovato la sua disponibilità a seguirci. Siamo sempre qui a raccontarvi appunto il mondo degli oratori, il sabato alle 14 e la domenica alle 12:30. Mi raccomando, segnatevi queste due indicazioni, perché rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato orario, fascia oraria. Cambiato orario, ma non lo stile, perché Betta, anche quest'anno noi andremo a visitare gli oratori, i circoli che fanno parte di quella grande famiglia che si chiama Noi Associazione. Andremo proprio a visitarli negli ambienti oratoriali, quindi riprenderemo quel oratur giro negli oratori per ascoltare dai responsabili, dai frequentatori, adulti, ragazzi, anziani, cosa vivono all'interno degli oratori. Questo ci è sempre, diciamo, caratterizzato come trasmissione, come stile, e quest'anno riprenderemo il giro negli oratori, tenendo conto anche che speriamo e confidiamo nella collaborazione anche delle altre realtà territoriali come Noi Padova, Noi Venezia, forse anche Noi Verona, Noi Vicenza e tutti gli altri territoriali del Veneto. Qui in studio siamo appunto io e te, Cristian, ma chiediamo anche a voi radioascoltatori di diventare i protagonisti, insomma, di questo format, di questo contenuto radiofonico. Allora vi chiediamo di mandarci qualche progetto che avete in cantiere nelle vostre realtà, qualche suggerimento anche sulla nostra trasmissione all'indirizzo fuori di noi @libero.it, oppure se avete più dimestichezza con il cellulare inviate un SMS al numero 320 61 46 964. Noi leggeremo insomma le vostre mail, i vostri messaggi, e poi cercheremo di accontentarvi. Potrebbe essere anche qualche bella fotografia scattata all'interno dei vostri oratori, che a Cristian piacciono tanto, anche perché sia nel settimanale diocesano, in tutti i settimanali diocesani della nostra regione, c'è uno spazio dedicato agli oratori. Per quanto riguarda Treviso, noi abbiamo una pagina che si chiama Mettiamoci in Riga, esce una volta al mese, la quarta domenica del mese, quindi magari queste foto potrebbero appunto essere inserite in queste pagine e raccontare un po' la vostra esperienza di oratorio. Quindi mandateci qualche fotografia e magari una piccola presentazione di cosa rappresenta. Peculiarità della nostra trasmissione, come ricordavi tu Cristian, è il fatto di andare è lì. È la tua presenza, no, questo, ecco, lo questo so. Lasciamo stare, è andare lì negli oratori per ci ascoltare dal vivo, insomma, quanto ci verrai anche tu, questa è la domanda principale. Ma no, noi ci faremo aiutare da qualcun altro, che dai nostri preziosi collaboratori che andranno per noi nei vari oratori, giusto? Assolutamente sì, però Betta, se qualche domenica, qualche fine settimana sei libera, tu sei sempre ospite gradita per noi, va bene? Sì, per noi, va bene. Comunque, fuori di noi. Sì, per fuori di noi. Cosa volevo dire, no, stavo estate, per Betta? Dire una cosa, che la peculiarità della nostra trasmissione non è solo il fatto di andare appunto negli oratori, ma anche di impreziosire appunto il nostro contenuto con qualche personaggio che viene direttamente qui nei nostri studi ad arricchire la nostra trasmissione. Magari come prima puntata abbiamo questo personaggio che potrebbe arricchire il nostro contenitore, della nostra trasmissione. Sì, è qui di fronte a noi. Ma davvero? Sì. Dov'è? Vediamo, proviamo a salutarlo. Proviamo, prova tu. Ciao. Ciao. Vediamo se qualcuno forse ha già riconosciuto la voce, perché è stato protagonista anche nelle nostre puntate l'anno scorso. Abbiamo qui con noi Don Bernardo Marconato, il presidente di Noi Treviso. Ciao Betta, ciao Cristian, e saluto tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato. Grazie. Don Bernardo. Don Bernardo ci racconterà un po' com'è lo stato di salute di Noi Treviso, ma anche un po' tutti i progetti e quanto è in cantiere anche per i prossimi mesi e il prossimo anno. Anche perché è un periodo in cui tantissime realtà territoriali hanno preparato, hanno organizzato e hanno realizzato anche una conferenza di presentazione dell'anno sociale 2012. Tante cose anche quest'anno, tante iniziative stanno appunto nascendo, e sentiremo appunto, speriamo di sentire in queste prime puntate di Fuori di Noi edizione 2011-2012 i presidenti territoriali delle varie, appunto, dei vari comitati raccontare un po' le esperienze che stanno vivendo e i progetti che hanno in cantiere di realizzare. Don Bernardo, partiamo subito. Come sta la realtà di Noi Treviso? È una bella realtà, ancora molto vivace, circoli che continuano a presentare, parrocchie che continuano a presentarsi per, con il desiderio di diventare appunto e portare i circoli all'interno della loro parrocchia, quindi è una buona realtà. Siamo 51.000 iscritti quest'anno, è un bel numero, diciamo, anche se non basta il numero, occorre dare anche un valore a queste realtà e quindi anche sostenerle proprio nel loro nascere e anche in questi primi passi, quelle nuove, e sostenere quelle realtà che già da anni ci sono, sostenerle proprio nella vivacità e anche nel rinvigorire il loro desiderio di fare per la parrocchia, nella parrocchia. 51.000 tesserati per circa 140 realtà. 139 per, ecco, la precisione. Per la precisione, ma noi insomma ci auguriamo, ecco, che ben presto arrivino a 140 e oltre. Anche perché mi pare che ci siano tante realtà che stanno iniziando questo cammino, perché non è che dall'oggi a domani appunto può nascere un oratorio, ma c'è un cammino che anche il comitato territoriale cerca un po' di seguire. Domanda, Don Bernardo, tanti oratori che stanno appunto anche aumentando di numero di presenze e di progetti. Quindi la parrocchia e l'oratorio sempre più realtà indissolubilmente legate e complementari. Sono due realtà legatissime, perché appunto l'oratorio nasce per la parrocchia, per i ragazzi e per i giovani, quindi hanno bisogno proprio che siano due cose unite. La parrocchia aiuta l'oratorio e l'oratorio aiuta la parrocchia nella gestione, nella vita di questi giovani, questi ragazzi. E questo oratorio diventa quindi un punto di aggregazione, ma anche un punto, diciamo, dove si fa formazione. Soprattutto si diventa un luogo educativo che deve appunto aiutare i ragazzi, i giovani a crescere attraverso il protagonismo delle loro iniziative, del loro stare insieme, diventano appunto occasioni di formazione, di crescita, di educazione. E questo è anche il desiderio, l'obiettivo che abbiamo nel seguire i vari oratori e anche i circoli. Ecco, a proposito di formazione, magari dopo il primo momento musicale che ci lasciamo ora, ne parleremo proprio più distesamente, sia alla luce dell'esperienza vissuta l'anno scorso e di quella che si apre. Io amo questo gruppo, è un gruppo che sta facendo appunto, si sta sempre più imponendo nella scena musicale mondiale, e sono i Coldplay con Every Teardrop is a Waterfall. I turn the music up, I got my records on, I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. Yeah. Eccoci ritornati per questa prima puntata della stagione 2011-2012. Fuori di noi! Mi hai interrotto. Sì, è vero. Ecco. Fuori di noi, esattamente, sempre qui dalle frequenze di Blu Radio Veneto, puntualmente il sabato alle 14 e la domenica alle 12.30, in compagnia di Christian. Grazie, e Betta. Ecco, bravo. Mi ero dimenticato, dovevo dirlo. Ho capito. Grazie. Siamo qui. La prima puntata. Sì, infatti, dobbiamo un po' riprenderci dalla pausa estiva e anche da questi mesi, insomma, autunnali. Così siamo fatto qui con estate. Don Bernardo Marconato. La seconda volta che chiedo. Presidente di Noi Treviso, per raccontare appunto questa realtà. Eravamo rimasti, Don Bernardo, prima della canzone dei Coldplay, a parlare un po' dell'importanza che per l'associazione ricopre la formazione. E allora, alla luce un po' dell'esperienza dell'anno scorso e di quella appunto che verrà riproposta nei prossimi mesi, qui tra le mani ho proprio un dépliant in cui c'è scritto che appunto Noi Treviso propone Lab Oratorio di Relazioni per il secondo anno, un corso di formazione per animatori di oratorio. Di che cosa si tratta? Sì, è un'iniziativa che abbiamo cominciato l'anno scorso proprio col desiderio di aiutare coloro che sono nel bar, che animano l'oratorio, giovani 18-30 anni oppure anche 30 anni in su, che possano avere dei momenti di formazione, cioè come aiutarli a rapportarsi con i ragazzi, come stare insieme con loro, come animare una giornata in oratorio, riuscire a, per esempio, a rapportarsi con i ragazzi un po' più difficili da contattare. E quindi abbiamo ideato questi laboratori nelle varie zone della diocesi proprio per aiutarli in questo, diciamo, a formarsi e a trovare, diciamo, delle strade per essere più vicini anche ai ragazzi. Quattro sono le tappe un po' che Noi Treviso propone, a partire un po' dallo scoprire i nuovi adolescenti e i nuovi educatori animatori che frequentano i nostri oratori, la comunicazione poi come luogo della relazione, imparare anche un po' a litigare come occasione di crescita. Hai capito, Christian? Questo forse ti farebbe bene. Io sto ascoltando, e poi con molta attenzione. Nell'ultima parte invece anche il gioco, ecco, le potenzialità, ecco, questa, e tutto questa quello è la che, parte che vi piace di più, che può comportare, insomma, l'esperienza del gioco in oratorio. Sì, c'è bisogno appunto di riflettere, di capire sulla relazione, appunto, e quindi abbiamo ideato questi titoli e viene fatto non tanto un corso così o tre serate o quattro a seconda dell'età, ma è solo teorico, è un corso proprio dove la persona si mette in gioco e attraverso anche l'esperienza, il metodo attivo partecipativo, riescono così a riflettere, a capire atteggiamenti o modi che si ha per relazionarsi con i ragazzi, con i giovani. Allora, l'appuntamento sarà appunto da gennaio 2012, possiamo già accennare ai luoghi in cui si terranno questi incontri: a San Zenone degli Ezzelini, Piombino Dese, San Trovaso, Frescada. E potete andare, nel sito anche di noitreviso.it e scoprire anche un po' tutte le modalità per potersi iscrivere a questi incontri. E non è una nuova esperienza, perché è un'esperienza consolidata, visto che l'anno scorso questo corso, il laboratorio di relazione, è stato proposto e ha avuto un grandissimo successo. Sì. Quindi si ricalca, diciamo, anche l'esigenza e il bisogno che arrivava appunto dai nostri oratori di continuare a formarsi per dare un servizio, e perché appunto questi ambienti non sono soltanto ambienti fisici, ma proprio uno stile, diciamo, anche di comunità, di vita, di relazione. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Noi Associazione, tanti auguri a te. Scusate appunto per la voce e l'intonazione, ma c'era un buon motivo per cantare questa canzone, visto che l'assemblea, tutte queste, diciamo, incontri a livello territoriali hanno avuto come leitmotiv, addirittura gli applausi qui dalla nostra regia, e ce ne vogliono tanti, anzi 10 di questi applausi, proprio perché appunto il prossimo anno 2012, anno sociale, c'è il compleanno di Noi Associazione, 10 anni di vita per quanto riguarda Noi Associazione. Quindi, quali novità? Come festeggerà, diciamo, il territoriale di Treviso questa grande ricorrenza? Allora, una cosa che abbiamo pensato appunto è quella di ripartire con una festa che abbiamo ideato e stiamo programmando e realizzando insieme con alcuni circoli territoriali, una festa che verrà fatta il 15 aprile a Quinto di Treviso, dove sono invitati tutti i circoli Noi a vivere una giornata insieme, appunto proprio per festeggiare questi 10 anni, però vuole essere anche un riprendere, diciamo, un ritrovarsi ogni anno insieme proprio per vivere una giornata di festa, di gioco, di riflessione insieme. Quindi tutti i circoli, appunto, affiliati a Noi Treviso sono invitati a concentrarsi il 15 di aprile all'oratorio San Giorgio di Quinto. Bello anche il fatto che ci saranno diversi circoli che cercheranno di animare e organizzare questa giornata, che ha puramente, appunto, lo stile di ritrovarsi, di festeggiare, di ricordare, ma anche di mostrare quello che di bello nasce e si vive all'interno dell'oratorio. Qualche altro appuntamento importante che l'associazione cercherà, diciamo, di realizzare e di portare avanti? Beh, allora abbiamo il dibattito che facciamo cercando di realizzare, appunto, una serata dove offriamo degli aspetti pratici di riflessione, e quindi in marzo avremo anche un dibattito, perché non siano solo parole, con un personaggio anche conosciuto in tutta Italia e anche fuori, penso, dell'Italia. E riflettendo sulla virtualità e la realtà, sulla comunicazione, e sarà con noi Don Fortunato Di Noto, che cercherà, appunto, di trattare questo tema, lui che, oltre alle iniziative che ha, anche però lavora con gli oratori della sua zona dove è parroco, e quindi ha anche esperienza proprio con circoli, con oratori, sul come usare anche questi strumenti moderni, diciamo. Un'occasione, appunto, per i volontari, i responsabili di oratorio, ma aperta a tutti. Certo, certo. Ricordiamo la data e il luogo. 16 marzo al Pio Decimo, all'Auditorium Pio Decimo di Treviso. Allora, noi adesso mandiamo il secondo momento musicale. Questo l'hai scelto tu. È un titolo praticamente che è per noi, ma anche per voi. Benvenuti, appunto, alla prima puntata di Fuori di Noi. E allora abbiamo scelto la nostra Laura Pausini con Benvenuto. Che perdi la strada di casa, ma vai dove ti portano i piedi, e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. A chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica, segreto da sussurrare, ma una bugia da sciogliere, a chi non chiede perdono ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che commuove, ad un cielo che promette neve, benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli con i tuoi. Benvenuto. Laura Pausini con Benvenuto, sta concludendo la seconda e ultima parte di Fuori di Noi. Abbiamo come ospite sempre Don Bernardo Marconato, presidente di Noi Treviso, che ci sta un po' illustrando le novità per l'anno sociale 2012. Bernardo, ma l'anno scorso siamo andati ad intervistare anche i responsabili di alcune compagnie teatrali che hanno partecipato alla rassegna teatrale. Quest'anno niente teatro? 10 anni per l'associazione, 10 compagnie teatrali amatoriali, anche quest'anno a Scorzè. Alla sera del sabato, per 10 sabati si esibiranno davanti a un pubblico nel teatro Elio di Scorzè, e appunto per 10 serate insieme. 10 anni, 10 appuntamenti con il grande teatro amatoriale. Molto bene. Prima Cristian accennavi a una pagina speciale che La Vita del Popolo, settimanale diocesano, così dedica a Noi Associazione, e in questa pagina c'è una rubrica particolare curata da te, Don Bernardo, dal titolo Oratorio, Passione Educativa, è quella la rubrica in realtà è Pillole di Saggezza. E quindi cosa vuol dire oratorio, passione educativa? È anche il messaggio che ho dato appunto all'inizio di quest'anno, che appunto dove si festeggeranno i 10 anni, perché c'è bisogno di rinnovare anche questa passione per l'oratorio, per il circolo. E passione vuol dire dare affetto, coinvolgerci nelle cose, quindi gli oratori, se vogliono migliorare sempre di più, occorre che diano affetto, che si coinvolgano le persone all'interno dell'oratorio, che ci sia interesse, simpatia per l'oratorio, che ci sia anche che ci si prenda cura dell'oratorio, e c'è bisogno appunto di una passione. Su questo bisogna lavorare, perché appunto 10 anni può essere anche che si vada un po' a scalare, diciamo, in questa passione, però occorre, diciamo, rinnovarsi in questo, e quindi ho dato anche questo messaggio proprio perché i 10 anni siano una ripresa anche del nostro circo e delle nostre attività. Bene, Don Bernardo, noi ti ringraziamo, hai così aperto la nuova stagione di Fuori di Noi, raccontandoci un po' la realtà di Noi Treviso. Noi ci riascoltiamo il sabato alle 14, la domenica alle 12.30. Se volete scriverci, scrivete fuoridinoi@libero.it. Ringraziamo il nostro regista Eddie Daici. Cristian, cosa ti stai muovendo? Perché quando parliamo di educazione, noi abbiamo altre collaborazioni che porteremo avanti in quest'anno. Vuoi dire quale collaborazione principale? Una di queste è sicuramente con l'Azione Cattolica. L'anno scorso l'abbiamo fatta con la CR, quindi con l'Azione Cattolica dei ragazzi. Quest'anno vedremo che cosa ci riserverà, magari qualche sorpresa. Ma c'è già un grande appuntamento. Assolutamente, il 12 di novembre a Paderno di Ponzano tutti gli educatori della diocesi ACR e ACG si ritroveranno per vivere il loro convegno, un momento di riflessione dal titolo Dammi Voce, l'educatore, appello di Dio per l'altro. Quindi sono invitati tutti gli educatori, dei ragazzi e dei giovanissimi. Salutiamo allora anche tutti i nostri amici della CR e della C che ci hanno seguito e hanno contribuito l'anno scorso alla realizzazione di Fuori di Noi, e che faranno altrettanto anche quest'anno. Li salutiamo e auguriamo tutti appunto di poter partecipare a questo evento. Betta, mi pare che siamo alla conclusione. Siamo proprio alla conclusione. Hai già salutato, hai già ricordato l'appuntamento per la prossima settimana. Bernardo è sempre vicino a noi, però l'abbiamo già salutato, lo ringraziamo e speriamo di sentire i prossimi presidenti territoriali qui ai microfoni di Blu Radio Veneto con la trasmissione Fuori di Noi, dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. E quindi non ci resta che aggiungere arrivederci alla prossima settimana. Ciao a tutti. Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.